Bruciatore di libri di Alessandra Tedesco. Questo romanzo è un po' come salire su una giostra, perché inizialmente sembra girare più pacatamente, più lentamente, poi in modo sempre più vorticoso, fino a che secondo me il lettore inizia a provare quasi una vertigine e a immedesimarsi completamente con il personaggio e anche con i suoi dolori. Tant'è vero che quando si scende da questa giostra, quindi quando si finisce di leggere questo romanzo, si rimane anche un po' spiazzati e spaesati. Almeno questa è la sensazione che io ho provato leggendo Il Colibrì di Sandro Veronesi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Sandro Veronesi, un titolo per tutti, Caos Calmo, che aveva vinto il premio Strega nel 2006. Sandro, ero entrata anche un po' in crisi prima di questa intervista, perché ho detto: come faccio a parlare di questo libro che mi è piaciuto tanto? Perché potremmo partire dalla trama, ma ci sono tante cose da raccontare, tante storie, e sarebbe forse anche riduttivo, perché secondo me la bellezza di questo libro è nel modo in cui tu hai raccontato le cose che appunto narri. Direi di partire da una frase fondamentale che riguarda il tuo personaggio, e cioè che lui sostanzialmente vive e ha vissuto una vita ricca di potenti urti emotivi. Allora andiamo un po' per, come dire, cerchi emotivi, cerchi concentrici dall'emotività di questo personaggio. Il protagonista è Marco Carrera. Noi scopriamo tanti aspetti della sua vita, da quando è ragazzino fino a quando è adulto, ma la narrazione non è lineare perché ci sono tutta una serie di flashback, si va avanti e indietro. Quali sono, ecco, le caratteristiche principali di Marco Carrera? Allora, innanzitutto è un oculista, un oftalmologo, e lui ci tiene a pensare che è dottore come Zivago. Zivago è dottore in oculistica. È un po' un destino che lui si cerca, perché poi si cerca e si trova la sua Lara, questo amore impossibile, e questo rapporto che lui ha col mondo, che assomiglia un po' al rapporto che Zivago ha. Certo, Zivago attraversa un fatto epocale come la rivoluzione, quindi è ma tu ti sei ispirato a quel personaggio lì per disegnare il tuo Marco? Io no, però lui sì. Cioè, il personaggio credeva di essere una specie di Zivago quando deve appunto resistere a questi urti emotivi. Io sapevo che lui pensava a Zivago e agli urti emotivi che Zivago deve, quanti sono nel romanzo, tantissimi, che lui deve sopportare. Di urti emotivi Marco Carrera ne subisce tantissimi nella sua vita. Partiamo per esempio dalla famiglia d'origine: madre, padre, famiglia borghese fiorentina. Tu descrivi Marco Carrera come un ragazzino che non si rende conto, per esempio, che il rapporto fra i suoi genitori non è esattamente idilliaco. Tra parentesi, il titolo Il Colibrì deriva da un soprannome che gli aveva dato sua mamma, perché lui aveva l'ormone della crescita poco sviluppato, quindi era piccolino e poco sviluppato appunto in tutti i sensi, e vive in questa famiglia quasi non rendendosi conto di quelle che sono le frizioni fra i genitori. Sì, non si rende conto che la combinazione di quei due genitori, che ovviamente lui ama come si amano i genitori, è una combinazione che produce solo infelicità, non può produrre altro che infelicità. Poi viene detto anche che questi due ci hanno anche provato a essere felici, lo sono anche stati per un breve periodo, ma anche prima producevano infelicità. Sono due persone infelici che si sono messe insieme credendo di poter diventare felici, e poi invece hanno continuato a essere infelici, a quel punto anche però trasmettendo questa infelicità ai figli. E soprattutto forse trasmettendola di Irene, che è la sorella maggiore. Siccome c'è una sorella maggiore che fa da parafulmine, da punta spilli, lei si accorge sempre di tutto, capisce tutto, spia, sa tutto della famiglia, e questo permette a Marco Carrera, in parte anche a suo fratello minore Giacomo, di non sapere e di illudersi che la loro famiglia sia una famiglia borghese, tranquilla, siamo proprio negli anni in cui si votava pro contro il divorzio, no? E sebbene questa sia una famiglia che ha votato per il divorzio, non ci pensa minimamente, non ci pensa nessuno alla separazione in quella famiglia, che invece sarebbe, diciamo, lo sbocco naturale nel tentativo di unione tra queste due persone che sono Probo e Letizia, i genitori che non sono fatti per stare insieme. E veniamo appunto a Irene, che è la sorella maggiore, è un personaggio determinante in questo romanzo, perché uno dei grandi dolori di Marco sarà legato proprio alla perdita della sorella, possiamo dire, perché tanto si intuisce fin dall'inizio. È detto al primo capitolo, lei si suiciderà. A un certo punto, per descrivere sua sorella, Marco usa queste parole: si portava dentro buio e confusione. Irene è una ragazza problematica, fin da subito, fin da sempre, o forse non compresa. Beh sì, no, è una ragazza problematica, però ripeto, i problemi li ha trovati in casa, non è che se li ha inventati. Ci sono queste persone che raccattano nei luoghi familiari tutto il peggio che c'è per terra. Anziché scansarlo, come fa Marco, lei se lo prende tutto e quindi vive una vita difficile, difficile proprio da un punto di vista nervoso, prima ancora che emotivo o affettivo. E infatti è la classica figliola difficile, oggi si direbbe disfunzionale, ma all'epoca non si usava quella parola. E che però passa attraverso terapie, eccetera. Ma per queste persone la vita è insormontabile, perché è fatta di... Ogni giorno c'è un giorno da vivere, ogni giorno c'è un giorno da sopportare. Te riesci a sopportare bene 365 giorni, quindi tutto un anno, tutti pensano vabbè è fatta, e poi arriva il 366esimo. E soprattutto in questa famiglia più di tanto non si erano resi conto della situazione. Infatti lo descrivi in molte... Si ha sempre la sensazione... Si erano abituati che lei era problematica. E si ha sempre la sensazione che stia per accadere qualcosa di grave, sempre in questo romanzo. Infatti in più di una scena si pensa che sia quella la scena madre, la scena che porterà alla morte di Irene, invece poi arriva in tutt'altro momento. In un momento in cui, tra l'altro, tutti sono impegnati a fare altro. Per esempio, lo stesso Marco inizia a vivere il suo piccolo sogno d'amore con Luisa. Lui all'epoca aveva 21 anni, lei 15, e Luisa sarà una parte determinante della sua vita, perché anche se lui si è sposato con un'altra donna, con Marina, Luisa resta l'amore della sua vita. Questa donna il lettore la vede solo attraverso sostanzialmente le lettere che loro continuano a scriversi nel corso degli anni. Che relazione c'è fra i due? Beh, adesso è più facile da capirsi, perché adesso ci sono relazioni via WhatsApp di persone che poi cominciano per scherzo, ma poi si legano molto senza vedersi, mandandosi messaggi, dico WhatsApp, può essere Facebook, può essere messaggi diretti, mail, di Twitter, certo. Insomma i social, le mail, eccetera. Si comincia però in un tempo, che sono gli anni 70-80, in cui non c'era questo, c'erano le lettere, era ancora, diciamo, una coda dell'Ottocento, la lettera e il francobollo, la posta, e loro cominciano così e continuano così anche quando comincia a esserci una tecnologia, diciamo, più rapida e più accessibile. Continuano perché è lì che si è depositato il senso della loro unione, non essendo possibile toccarsi, perché quando si sono toccati per l'appunto la prima volta è successo quella roba, e insomma sono tutte e due molto giovani, rimangono tutte e due scioccati, naturalmente Marco Carrera e sua sorella per forza di più, certo. Però pure lei è una bimbetta e viene travolta da una cosa che insomma, allora la distanza lì che li separa li protegge anche, e allora in distanza possono essere molto appassionati l'uno con l'altra. Il problema è quando, perché capita in questi 40 anni che poi si ritrovino vicini, lì diventa un po' più problematico. Io ho pensato a una cosa, naturalmente mutatis mutandis, a un passaggio di un libro di Konrad Lorenz sui cani, che si chiama E l'uomo incontrò il cane, e sono tutte le sue esperienze di etologo con i cani. Lui aveva tanti cani e dice che c'aveva in questa proprietà in campagna un vicino che aveva un cane, e lungo questa rete che divideva i due giardini questi due cani cominciavano a correre in su e giù odiandosi e abbaiandosi in tutti i modi possibili. Allora lui col vicino decise di a un certo punto levare la rete, Quindi comincia la rete con questi due che si ringhiano, poi quando si rendono conto che correndo lungo la rete non c'è più, smettono di ringhiarsi. Cioè quel sentimento fortissimo, che in questo caso è odio, certo, no? Che c'era quando loro erano separati, quando sono vicini viene scompare. Meno. Un po' rovesciando le cose è quello che succede a Marco e a Luisa. Quando sono lontani si amano appassionatamente. Quando si vedono. Quando si vedono c'è sempre qualche problema che rovescia le cose. E solo alla fine del romanzo, tra l'altro, Marco scoprirà anche altre cose che riguardano suo fratello, insomma, cose che non aveva mai capito né di suo fratello né di altre persone, insomma, che lo circondano. Altro nucleo emotivo e fondamentale per il protagonista è la figlia, Adele. Noi la vediamo bambina che ha questo disturbo emotivo. Lei pensa di avere un filo dietro la schiena che la lega alla parete. Poi, insomma, con l'aiuto degli psicologi capiscono che forse vuole stare più vicino al padre che non alla madre. Ora, senza andare troppo nei dettagli della trama, il rapporto con Adele, ovviamente, essendo la figlia, è fondamentale per Marco. Sì, è fondamentale, anche se sarà foriero di un ulteriore grande dolore, però anche di quella poi alla fine ragion d'essere di tutto, che non sarà soltanto la nipotina che sua figlia gli lascerà, ma il ruolo che andrà a coprire questa bimbetta, perché è una cosa, ma Marco Carrera non crede in Dio, ma crede a quello che dice sua figlia, che gli ritorna incinta da una zingarata di surf perché lei andava... Non sa neanche chi sia il padre, o non lo vuole dire, non lo insomma. Vuol dire, non lo sa, però sa che questo figlio che sta per nascere sarà l'uomo nuovo. Infatti lo chiama in giapponese, lei è fissata coi manga, lo chiama in giapponese Mirai Jin, convinta che appunto quest'uomo nuovo cambierà il mondo. Quando nasce, quest'uomo nuovo già... riserva la prima sorpresa perché è una donna. È una femmina e questa è già una buona notizia secondo Adele e anche secondo Marco Carrera, perché è più plausibile che a cambiare il mondo sia una donna. Quantomeno salverà forse la vita di Marco Carrera, questo sì. Possiamo dire. Questo è un romanzo anche fatto di tante coincidenze, anche di finte coincidenze, nel senso che poi si scoprono che tanto coincidenze non erano. Ci sono molte frasi che io ho segnato, ce n'è una in particolar modo che mi ha colpito. Quante persone sono seppellite dentro di noi? Questo è un romanzo in cui le persone muoiono. Abbiamo detto la sorella, per esempio, si suicida, poi a un certo punto, con l'età, i genitori del protagonista moriranno, si ammaleranno e poi moriranno. Ecco, che cosa rappresenta per te questa frase? Veramente siamo figli delle persone che abbiamo perso. Ora qui io devo dire una cosa. Alla fine del romanzo, in una specie di capitolo defaticante, io dico grazie a tutti quelli a cui ho preso qualcosa, confesso quello che normalmente gli scrittori non confessano, cioè di aver fatto ispirare da alcuni altri scrittori per alcuni, certo, brani. Però io credo, sono convinto che questa frase bella non sia mia, che venga da qualcuno, ma non so chi. Non so, mi sembra che sia una cosa che mi ha colpito tanto tempo fa e che io poi mi sono scordato di chi è e ho fatto mia. Anzi, se qualcuno lo se sa, qualcuno può rivolgersi, assolutamente. Io, ma cosa rappresenta indipendentemente dal fatto? L'idea di avere seppelliti dentro di noi tante persone, che sono le persone che ci sono mancate, che ci sono venute a mancare durante la nostra vita. Noi le abbiamo seppellite fuori, nelle loro tombe, nelle loro. Però le abbiamo anche seppellite dentro di noi, nel senso che ce le portiamo quotidianamente appresso. Ci sono persone alle quali si continua a pensare ogni santo giorno per tutto il resto della nostra vita e che quindi sono spellite dentro di noi. Quante ne possiamo contenere? Dipende da quante persone ci vengono a mancare. Forse è una capacità illimitata. Marco Carrera viene messo a dura prova perché ne deve portare parecchie di queste persone dentro. E quindi questa frase, che ripeto, io non credo di averla, credo di averla presa in prestito, ma non so da chi, non ho potuto dirlo, e che lo dice molto bene, non a caso appunto è stata segnalata come una delle migliori, non è mia, non credo che sia mia, anche se, insomma, in un'intervista che è uscita oggi su Vanity Fair, l'intervistatore Marco Pagani mi ha ricordato che io ho accolto a casa mia Paolo Virzì con una coperta durante la notte in cui gli bruciò casa vicino alla casa mia, io non me lo ricordavo. Schiedi, ho detto, ma sei sicuro? E lui mi ha mandato due interviste di Virzì, nelle quali Virzì dice questa cosa, e io me l'ero scordata. Quindi potrei anche essere un po' rimbecillito e questa frase invece averla partorita tu. Io, ma in qualunque caso è una frase valida, insomma. Forse troppo valida e quindi forse non è mia. Le cose che succedono a Marco Carrara in questo romanzo sono tantissime, ma non abbiamo il tempo di raccontarle, forse neanche la voglia di raccontarle tutte, perché sennò vi togliamo il gusto della lettura, perché c'è un amico di gioventù che pare che porti sfiga, ma lui no, perché essere nell'occhio del ciclone a volte porta bene. E poi ci sono tante coincidenze e tante cose che avvengono, la passione per esempio per il gioco d'azzardo. Grazie allora Sandro Veronesi. Ora, grazie a voi, grazie. Ora in libreria con Il Colibri, pubblicato dalla Nave di Teseo. E per questo appuntamento breve con Il Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che l'appuntamento settimanale con Il Cacciatore di Libri è per ogni sabato alle 6.30 per i mattinieri e alle 15.30. Tutte le interviste agli scrittori sono disponibili in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.